Noi siamo stati al Ministero ricevuti appunto da Di Maio il 6 giugno scorso, abbiamo portato insomma quelle che sono le nostre rivendicazioni, le esperienze fatte insomma anche qua a Bologna. Quello che abbiamo chiesto in maniera chiara era l'apertura di un tavolo di contrattazione con il governo e le piattaforme su questo tema e allo stesso tempo che a questo tavolo fossero presenti tutte quelle realtà auto-organizzate insomma come la nostra, presenti un po' su tutto il territorio nazionale. Cos'è successo nel frattempo? Il Ministero ha scritto questo decreto, un decreto al cui interno ci sono delle cose precise su tutte l'estensione della subordinazione anche appunto per i ciclofattorini, per i riders, dopodiché diciamo si è un attimo fermato, ha messo stand by il decreto e ha incontrato le piattaforme che intanto si erano molto preoccupate dalla piega che stava prendendo un po' insomma la situazione. Fatto l'incontro con le piattaforme, il Ministero ci ha ricontattato convocandoci appunto per lunedì 2 luglio tutti quanti, quindi noi le aziende, a questo primo tavolo ufficiale di contrattazione. Quello che dice il governo è: se non si riesce a trovare una quadra in quel tavolo e quindi salta, noi riprendiamo in mano quel decreto che già avevamo scritto. Ora, da parte nostra, insomma, a quel tavolo diremo delle cose semplici, fondamentali, e cioè indietro non si torna. Quindi per noi anche i punti che erano stati scritti nel decreto sono i punti di partenza, quindi l'estensione delle tutele, insomma, della subordinazione a tutti quanti, e un no al cottimo assoluto, una paga minima dignitosa con riferimento ai contratti collettivi nazionali, da cui si parte e si discuterà appunto con le aziende e vedremo insomma che cosa uscirà fuori. Allo stesso tempo abbiamo appunto convocato un presidio in contemporanea fuori, non solo di riders, ma come noi abbiamo sempre detto a Bologna ma anche da altre parti, portiamo avanti questa battaglia, questa lotta, non solo per noi ma per tutti. Crediamo che sia arrivato il momento ora in Italia di allargare i diritti e quindi insomma ci riferiamo a tutti quei milioni di precari, di sfruttati, italiani o migranti che siano, che però insomma dal basso si stanno organizzando, alzano la testa e decidono appunto di dire no allo sfruttamento, no alla precarietà, no ai ricatti. Il dibattito dopo il vostro primo incontro, una parte insomma del dibattito che si era anche concentrata proprio su questo, sul fatto che non possa essere fatta una cosa ad hoc solo per i riders, ma il problema sia condiviso da tante altre categorie, quindi forse serve, come dire, un provvedimento allargato a tutte e a tutti. Certo, noi allora partiamo appunto dall'esperienza specifica che è quella nostra di lavoro, che viviamo quotidianamente, ma sicuramente sappiamo di non essere gli unici sfruttati in questo paese e quindi è necessario estendere le tutele, i diritti a tutte insomma quei settori, a quella generazione che dicevo prima, che dopo insomma 30-35 anni di leggi fatte diciamo solo a favore delle aziende e contro i lavoratori, chiede giustizia, chiede dignità, chiede rispetto, e su questo insomma noi crediamo che da qui si possa aprire una partita più ampia che vada insomma ad allargare, ad estendere tutte le tutele, i diritti e il reddito a quante più persone possibili. A proposito di aziende, tu raccontavi si sono preoccupate, qualcuno ha minacciato anche di lasciare l'Italia perché le nuove condizioni imposte per legge sarebbero troppo impegnative. Questa forse è, come dire, un'arma ricattatoria che utilizzeranno anche lunedì? Ma io non credo, nel senso che conosciamo bene le multinazionali, non è la prima volta che fanno questo tipo di minacce in vari ambiti e in vari momenti storici. Non credo insomma che sia dal loro punto di vista realmente possibile chiudere il servizio in Italia. Dopodiché noi l'abbiamo scritto insomma che chiaramente se devono rimanere in Italia con queste condizioni, sfruttando i lavoratori e non appunto dando un minimo di diritto, che se ne vadano pure. Detto ciò, insomma, io credo che al tavolo non verranno con questa posizione, hanno capito che ora si fa sul serio e quindi sono convinto insomma che anche loro useranno il buon senso. Dopodiché vediamo che esce fuori e lunedì pomeriggio trarremo le nostre insomma conclusioni, vedremo se il tavolo andrà avanti, come andrà avanti. Sicuramente noi non facciamo dei passi indietro.